10. I bastioni a Cuneo, che proteggevano il lato sud-est di Fort Niagara, erano una freccia puntata contro la colonia di New York e le città della costa. I francesi, per non allarmare le popolazioni circostanti, avevano costruito la fortezza in modo che somigliasse a un enorme emporio in muratura. In realtà si trattava di una costruzione difficile da espugnare. I bastioni erano alti, le casamatte piene di cannoni. Joseph passò accanto a tende e baracche che i profughi della Mohawk Valley avevano eretto ai piedi delle fortificazioni. Volti noti, uomini e donne che erano partiti con lui l'anno prima per combattere in Canada. Ora dipendevano dal governo di Sua Maestà e dalla benevolenza della guarnigione. Il suo popolo non aveva un altro posto dove andare. La piazza d'armi era un caotico mercato. Gente di ogni razza e religione cercava di accaparrarsi le ultime provviste disponibili per superare l'inverno. Un vecchio cacciatore, dagli occhi spiritati, cercava di vendere pellicce a un gruppo di indiani che prestavano scarsa attenzione. Nei mori dell'uomo c'era qualcosa di folle. Il bianco sbatté a terra la pelliccia che stava magnificando e iniziò a imprecare. Gli indiani arretrarono, fissandolo con aria interrogativa, preoccupata. Tra la folla si fece largo un gruppetto di uomini. Erano Seneca, ma li cappeggiava un giovane bianco. Si chinò a raccogliere la pelliccia. La esaminò, la consegnò a uno degli indiani e tirò fuori alcune monete dalla tasca del giaccone. «Ti pago un buon prezzo. Ora non farti più vedere!» Il cacciatore si allontanò, bofonchiando. Il giovane bianco si girò. Era Walter, il figlio di John Butler. «Che Dio mi fulmini! Joseph Brent!» «Sapevamo che eravate tornato. Mi chiedevo solo quando vi avremmo rivisto.» L'uomo avanzò, contornato dal drappello che lo scortava. Sotto il giaccone, una collana di vampum testimoniava l'amicizia dei Seneca. Alla cintura, una coppia di pistole. «Come state?» domandò Joseph. «Bene, direi. Sono tempi duri, ma con l'aiuto dei Seneca e della guarnigione del forte manteniamo la presa su questo territorio.» I Seneca fissavano i compagni di Joseph senza spendere gesti di benvenuto. Uno degli uomini scandì le parole in lingua onondaga, in modo che tutti i presenti potessero capire. «Così tu sei Lega Due Bastoni. Quali sono dunque le parole del grande padre inglese per i Seneca?» Joseph rispose con la massima calma. «Sono parole di alleanza, non soltanto per i Seneca, ma per tutta la lunga casa. Le udirete per esteso al concilio, in primavera.» Il Seneca annuì. Walter Butler fece cenno a Joseph e ai suoi di seguirlo. «Venite, vi accompagno da mio padre. Ma a cena riservate un po' di tempo per me, Joseph. Voglio sentire le notizie dalla madre patria.» Il gruppo si mosse e attraversò la folla. Il giovane Butler camminava impettito. Joseph sentì su di sé occhi freddi e silenziosi. «Mio figlio esagera. Stiamo facendo un buon lavoro, ma i Sachem sono lontani dall'aver deciso da che parte stare. Vengono qui perché abbiamo provviste, fucili, coperte e rum. Ci considerano di casa. Hanno il loro tornaconto, ma sono restii a portare la nazione in guerra.» John Butler si alzò dalla sedia e prese a girare per la stanza a larghi passi. L'alloggio spartano rispecchiava l'aspetto del vecchio irlandese, più coriaceo e canuto di quanto Joseph ricordasse. «Difficile dargli torto. La guarnizione del forte conta pochi effettivi. Le notizie degli sbarchi a New York e a Quebec arrivano da troppo lontano. I Seneca e Tuscadora non vedono dispiegata la forza dell'Inghilterra, non capiscono quale convenienza ci sia nel prendere parte al conflitto.» Joseph indicò a est. «La porta orientale della lunga casa subisce già gli assalti del nemico. Per questo sono qui, per chiedervi di sostenere me e gli uomini che sto radunando. Ci servono polvere, fucili e vettovaglie.» «Una milizia lealista? È questo che avete in mente?» «Sì», rispose Joseph. Butler si risedette. Joseph notò lo scranno di legno interziato inciso con scene della Passione di Cristo. Butler batté il palmo sul bracciolo lucido. «Un regalo dei Seneca. Era di un abate francese.» Sembrò meditare a fondo, infine disse: «Io ho un compito qui. La sua riuscita dipende dalla quantità di beni che riesco a smistare.» Assunse un tono grave. «L'inverno è alle porte e ho roba appena sufficiente per i miei. Se rimango sprovvisto, i Seneca mi volteranno le spalle, questo è certo. L'unico modo di tenerli dalla nostra parte è approvvigionarli. Joseph rimase impassibile. Mi negate il vostro sostegno, capitano? Butler sospirò. Quando sarà il momento avrete tutto il sostegno che servirà. Ma se volete il mio parere, la vostra iniziativa mi sembra affrettata. Non abbiamo ricevuto ordini dall'alto comando e non è ancora indetto il Concilio delle Sei Nazioni. Joseph trattenne l'impulso di alzare la voce. Nella valle del Mohawk i ribelli fanno già quello che vogliono. Johnson Hall è stata requisita, la moglie di Sir John è in prigione. È tempo di difenderci. Dite che dovremmo aspettare gli ordini, ma io ho la parola del re in persona. Non vi arrabbiate, Joseph Brandt, disse Butler alzando la mano aperta. Non servirà a farmi cambiare idea. So bene cosa accade a casa nostra. Anche mia moglie e i miei due figli piccoli sono stati presi dai ribelli e condotti ad Albany. Io non ero là a difenderli, ma qui, a fare il mio dovere di buon lealista. L'indiano rimase muto. Butler si alzò e raccolse dal tavolo uno scettro di legno. Era un bastone di comando, intagliato e dipinto di rosso e nero. Diversi scalpi adornavano l'impugnatura. «Un altro dono dei Sachem Seneca», disse il vecchio capitano. «Un oggetto mirabile, non trovate? Emana forza, autorità». Accarezzò uno dei ciuffi di capelli con un gesto delicato delle mani ruvide e nodose. «Paura!» Si avvicinò a Joseph, tenendo il bastone ben in vista. «Cosa siete disposto a fare?» chiese. «Sacrificare la famiglia? Siete disposto a perdere i vostri cari, la discendenza?» Guardò l'indiano, senza aspettarsi una risposta. Joseph vide passare davanti agli occhi i volti di Susanna, Isaac e Cristina. «Dio solo sa se non vedo l'ora di agire», continuò Butler, il tono basso e cupo. «Ma so che quando accadrà sarà terribile quanto la collera di nostro Signore e tutti noi dovremo esserne all'altezza, accettare i sacrifici che Dio ci imporrà, trasformarci in flagello». Una smorfia d'odio gli storse la bocca. «Quel giorno strapperemo le viscere ai rinnegati. Agghinderemo il viale di Johnson Hall con le loro budella». D'un tratto parve scuotersi. «Rinnovo l'offerta che vi fece a Montreal. Restate qui con noi. Al momento opportuno guideremo insieme la riscossa». Joseph si alzò dalla sedia. «Mi dispiace, non posso aspettare. La mia decisione è presa». Butler annuì, rassegnato. «Capisco. Non ripartirete a mani vuote. Abbiamo confiscato un carico sul lago. Una dozzina di fucili e 4 barili di polvere. Non è molto, ma prendeteli. Vi serviranno». Joseph sentì il sangue ribollire di rabbia, ma riuscì a contenersi. Era meglio di niente e non era nelle condizioni di rifiutare. Osservò a lungo la mano tesa dell'irlandese, prima di decidersi a stringerla.